Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Il colonnello Gerineldo Márquez fu il primo ad accorgersi del vuoto in cui era caduta la guerra. Nella sua qualità di capo civile e militare di Macondo, aveva due volte alla settimana delle conversazioni telegrafiche col colonnello Aureliano Buendía. Benché non si lasciasse mai trascinare sul terreno delle confidenze, nemmeno dai suoi amici più prossimi, il colonnello Aureliano Buendía conservava allora il tono familiare che consentiva di riconoscerlo all'altra estremità della linea. Molte volte prolungava le conversazioni al di là del termine previsto e le lasciava derivare verso commenti di carattere domestico. A poco però, e a misura che la guerra si andava intensificando ed estendendo, la sua immagine si andò offuscando in un universo di realtà. I punti e le linee della sua voce erano sempre più remoti e incerti, e si univano e combinavano a formare parole che a poco persero ogni significato. Il colonnello Gerineldo Márquez si limitava allora ad ascoltare, turbato dalla sensazione di essere in contatto telegrafico con uno sconosciuto di un altro mondo. Finì per perdere ogni contatto con la guerra. Quella che in altri tempi era stata un'attività reale, una passione irresistibile della sua gioventù, si trasformò per lui in una relazione remota, un vuoto. Il suo unico rifugio era la stanza da lavoro di Amaranta. Le andava a far visita tutti i pomeriggi. Gli piaceva contemplare le sue mani intente ad arricciare nubi di merletti sulla macchina a manovella che faceva girare Remedios la Bella. Trascorrevano molte ore senza parlare, accontentandosi della compagnia reciproca, ma mentre Amaranta si compiaceva intimamente di mantenere vivo il fuoco della sua devozione, lui ignorava quali fossero i segreti disegni di quel cuore indecifrabile. Molte volte, quando non era presente Remedios la Bella, era lui che girava la ruota della macchina per cucire. Amaranta si sentiva turbata dalla perseveranza, dalla lealtà, dalla sottomissione di quell'uomo investito di tanta autorità, che tuttavia si spogliava delle armi in salotto per entrare indifeso nella stanza da lavoro. Ma per 4 anni lui le reiterò il suo amore e lei trovò sempre il modo di respingerlo senza offenderlo, perché malgrado non riuscisse ad amarlo, ormai non poteva vivere senza di lui. Fu in quel periodo che il colonnello Gerineldo Márquez cominciò a sentire la noia e il disgusto della guerra. Fece appello alle sue riserve di persuasione, alla sua immensa e repressa dolcezza, disposto a rinunciare per Amaranta a una gloria che gli era costata il sacrificio dei suoi anni migliori. Ma non riuscì a convincerla. Un pomeriggio di agosto, oppressa dal peso insopportabile della sua stessa ostinazione, Amaranta si chiuse in camera a piangere la sua solitudine fino alla morte, dopo aver dato la risposta definitiva al suo tenace pretendente. «Dimentichiamoci per sempre», gli disse. «Ormai siamo troppo vecchi per queste cose». Il colonnello Gerineldo Márquez rispose quel pomeriggio a una chiamata telegrafica del colonnello Aureliano Buendía. Fu una conversazione di routine. Alla fine il colonnello Gerineldo Márquez guardò le strade desolate, l'acqua cristallizzata sui mandorli, e si trovò perduto nella solitudine. «Aureliano», disse tristemente nel tasto trasmettitore, «a Macondo sta piovendo». Ci fu un lungo silenzio sulla linea. Improvvisamente saltarono le apparecchiature sotto i segni spietati del colonnello Aureliano Buendía. «Non fare lo stronzo, Gerineldo», dissero i segni. «È naturale che in agosto piova». Non si vedevano da così tanto tempo che il colonnello Gerineldo Márquez fu sconcertato dall'aggressività di quella reazione. Tuttavia, 2 mesi dopo, quando il colonnello Aureliano Buendía tornò a Macondo, il turbamento si trasformò in stupore. Perfino Ursula si meravigliò di quanto era cambiato. Arrivò senza fracasso, senza scorta, avvolto in un mantello nonostante il caldo, e con 3 amanti che sistemò in una stessa casa, dove passava la maggior parte del tempo disteso in una maca. Leggeva a malapena i dispacci telegrafici che parlavano di operazioni senza importanza. Era forse il momento più critico della guerra. I latifondisti liberali, che sulle prime appoggiavano la rivoluzione, avevano firmato alleanze segrete coi latifondisti conservatori per impedire la revisione dei titoli di proprietà. I politici avevano ripudiato pubblicamente le risoluzioni drastiche del colonnello Aureliano Buendía, ma perfino quell'esautoramento sembrava non preoccuparlo. Non aveva più ripreso la lettura dei suoi versi, che comprendevano più di 5 tomi e che rimanevano dimenticati in fondo al baule. Di notte o nell'ora della siesta chiamava nell'amaca una delle sue donne e otteneva da lei una soddisfazione rudimentale, e poi si addormentava di un sonno di sasso che non era turbato dal minimo indizio di preoccupazione. Soltanto lui sapeva allora che il suo cuore stordito era condannato per sempre all'incertezza. Fu in quell'epoca che decise che nessun essere umano, nemmeno Ursula, gli si avvicinasse a meno di 3 metri. Nel centro del cerchio di gesso che i suoi aiutanti di campo tracciavano dovunque egli arrivasse, nel quale soltanto lui poteva entrare, decideva con ordini brevi e inappellabili il destino del mondo. La prima volta che andò a Manaure, dopo la fucilazione del generale Moncada, si affrettò a compiere le ultime volontà della sua vittima. E la vedova ricevette gli occhiali, la medaglia, l'orologio e l'anello, ma non gli permise di oltrepassare la soglia. «Non entri, colonnello», gli disse. «Nella sua guerra comanderà lei, ma nella mia casa comando io». Il colonnello Aureliano Buendía non dimostrò nessun segno di rancore. Ma il suo spirito trovò pace soltanto quando la sua guardia personale saccheggiò e ridusse in cenere la casa della vedova. «Fa attenzione al cuore, Aureliano», gli diceva allora il colonnello Gerineldo Márquez. «Stai marcendo vivo». In quell'epoca convocò una seconda assemblea dei principali comandanti ribelli. Trovò di tutto: idealisti, ambiziosi, avventurieri, risentiti sociali e perfino delinquenti comuni. Molti non sapevano nemmeno perché combattevano. In mezzo a quella folla eterogenea, le cui diversità di criterio furono lì lì per provocare un'esplosione interna, spiccava un'autorità tenebrosa, il generale Teófilo Vargas. Era un indio puro, selvatico, un analfabeta, dotato di una malizia taciturna e di una vocazione messianica che suscitava nei suoi uomini un fanatismo demente. Il colonnello Aureliano Buendía promosse la riunione col proposito di unificare il comando ribelle contro le manovre dei politici. Il generale Teófilo Vargas prevenne i suoi piani. In poche ore sgominò la coalizione dei comandanti più qualificati e si impadronì del comando centrale. «È una belva da tener d'occhio», disse il colonnello Aureliano Buendía ai suoi ufficiali. «Per noi quell'uomo è più pericoloso del ministro della guerra». Allora un capitano assai giovane, che si era sempre distinto per la sua timidezza, alzò cautamente un indice. «È molto semplice, colonnello», propose. «Non c'è che da ammazzarlo». Il colonnello Aureliano Buendía non si turbò per la freddezza della proposta, ma per il modo in cui aveva anticipato per una frazione di secondo il suo stesso pensiero. «Non vi aspettate che io dia quell'ordine», disse. Non lo diede, in effetti. Ma 15 giorni dopo il generale Teófilo Vargas fu fatto a pezzi a colpi di macete in un'imboscata e il colonnello Aureliano Buendía assunse il comando centrale. La stessa notte in cui la sua autorità fu riconosciuta da tutti i comandi ribelli, si destò di soprassalto, urlando che voleva una coperta. Un gelo interno che gli incrinava le ossa e lo mortificava perfino in pieno sole gli impedì di dormire bene per parecchi mesi, finché se ne fece un'abitudine. L'ebbrezza del potere cominciò a decomporsi in raffiche di disagio. Cercando un rimedio contro il freddo, fece fucilare il giovane ufficiale che aveva proposto l'assassinio del generale Teófilo Vargas. I suoi ordini si realizzavano prima di essere impartiti, prima ancora che lui li concepisse, e giungevano sempre molto più lontano della meta a cui egli avrebbe osato farli arrivare. Smarrito nella solitudine del suo immenso potere, cominciò a perdere la rotta. Gli dava fastidio la gente che lo acclamava nei villaggi conquistati. Gli sembrava la stessa gente che aveva prima acclamato il nemico. «Il miglior amico», soleva dire allora, «è quello che è appena morto». Si stancò dell'incertezza, del circolo vizioso di quella guerra eterna che lo ritrovava sempre nello stesso luogo, ma ogni volta più vecchio, più sfinito, più ignaro del perché, del come, del fino a quando. C'era sempre qualcuno fuori dal cerchio di gesso. Qualcuno che aveva bisogno di soldi, che aveva un figlio con la tosse asinina o che voleva andarsene a dormire per sempre perché non poteva più sopportare nella bocca il sapore di merda della guerra e che ciò nonostante si metteva sull'attenti con le sue ultime riserve di energia per informare «Tutto normale, signor colonnello». E la normalità Era proprio la cosa più spaventosa di quella guerra infinita, che non succedeva nulla. Solo, abbandonato dai presagi, cercando di sfuggire al freddo che lo avrebbe accompagnato fino alla morte, cercò un ultimo rifugio a Macondo, al calore dei suoi ricordi più antichi. Era così grave la sua accidia che quando gli annunciarono l'arrivo di una commissione del suo partito autorizzata a discutere sul bivio a cui era arrivata la guerra, lui si rigirò nella maca senza svegliarsi del tutto. «Portateli a puttane», disse. Erano 6 avvocati in finanziere a cilindro che sopportavano con duro stoicismo il crudo sole di novembre. Ursula li ospitò nella casa. Verso i primi di dicembre, il colloquio lungamente atteso, che molti prevedevano sarebbe stata una discussione interminabile, si risolse in meno di un'ora. Nel soffocante salotto buono, il colonnello Aureliano Buendía non si mise quella volta dentro il circolo di gesso che avevano tracciato i suoi aiutanti di campo. Si sedette tra i suoi consiglieri politici e, avvolto nella coperta di lana, ascoltò in silenzio le succinte proposte degli emissari. Chiedevano per prima cosa di rinunciare alla revisione dei titoli di proprietà della terra per recuperare l'appoggio dei latifondisti liberali. Chiedevano poi di rinunciare alla lotta anticlericale per ottenere l'appoggio del popolo cattolico. Chiedevano per ultimo di rinunciare alle aspirazioni all'uguaglianza di diritti tra figli naturali e legittimi per preservare l'integrità delle famiglie. «Vuol dire», sorrise il colonnello Aureliano Buendía, «che stiamo lottando soltanto per il potere». Senza smettere di sorridere, prese i documenti che gli consegnarono i delegati e si preparò a firmare. «Dato che le cose stanno così», concluse, «non abbiamo alcun inconveniente ad accettare». I suoi uomini si guardarono costernati. «Mi perdoni, colonnello», disse lentamente il colonnello Gerineldo Márquez, «ma questo è un tradimento». Il colonnello Aureliano Buendía trattenne in aria la penna intinta e scaricò su di lui tutto il peso della sua autorità. «Mi consegni le sue armi subito!» Il colonnello Gerineldo Márquez si alzò e mise le armi sul tavolo. «Si presenti in caserma», gli ordinò il colonnello Aureliano Buendía. «Lei rimane a disposizione dei tribunali rivoluzionari». Poi firmò la dichiarazione e consegnò i documenti agli emissari. 2 giorni dopo, il colonnello Gerineldo Márquez, accusato di alto tradimento, fu condannato a morte. Sprofondato nella sua maca, il colonnello Aureliano Buendía fu insensibile alle suppliche di clemenza. Alla vigilia dell'esecuzione, contravvenendo all'ordine di non disturbarlo, Ursula andò a trovarlo nella stanza. Chiusa nel suo lutto, investita di una strana solennità, rimase in piedi durante i 3 minuti del colloquio. «So che fucilerai Gerineldo», disse serenamente, «e non posso far nulla per impedirlo. Ma ti avverto di una cosa. Non appena avrò visto il cadavere, te lo giuro, sulle ossa di mio padre e di mia madre, sulla memoria di José Arcadio Buendía, te lo giuro davanti a Dio, che ti verrò a prendere fin dove ti sarai cacciato e ti ammazzerò con le mie stesse mani». Prima di lasciare la stanza, senza attendere risposta, concluse: «Avrei fatto la stessa cosa se tu fossi nato con la coda di maiale». In quella notte interminabile, mentre il colonnello Gerineldo Márquez evocava i suoi pomeriggi morti nella stanza da lavoro di Amaranta, il colonnello Aureliano Buendía grattò per parecchie ore, cercando di romperla, la dura crosta della sua solitudine. Verso l'alba, distrutto dalla veglia tormentosa, comparve nella cella un'ora prima dell'esecuzione. «È finita la farsa, compare», disse al colonnello Gerineldo Márquez. «Andiamocene di qui prima che finiscano di fucilarti le zanzare». Il colonnello Gerineldo Márquez non poté reprimere il disprezzo che gli ispirava quel contegno. «No, Aureliano», ribatté. «È meglio essere morto che vederti trasformato in un ras». «Non mi vedrai», disse il colonnello Aureliano Buendía. «Mettiti le scarpe e aiutami a farla finita con questa guerra di merda». Quando lo disse, non immaginava che era più facile cominciare una guerra che finirla. ci volle quasi un anno di rigore sanguinario per forzare il governo a proporre condizioni di pace favorevoli ai ribelli e un altro anno per persuadere i suoi compagni di partito della convenienza di accettarle. Non fu mai miglior guerriero di allora. La certezza che finalmente lottava per la sua stessa liberazione e non per ideali astratti, per slogan che i politici potevano rigirare a diritto e a rovescio secondo le circostanze, gli infuse fervore ed entusiasmo. Il colonnello Gerineldo Márquez, che lottava per la sconfitta con la stessa convinzione e la stessa lealtà con le quali prima aveva lottato per il trionfo, gli rimproverava la sua inutile temerità. «Non preoccuparti!» sorrideva lui. «Morire è molto più difficile di quello che si può credere». Nel suo caso era vero. La certezza che il soggiorno era segnato lo investì di una immunità misteriosa, di una immortalità a scadenza fissa che lo rese invulnerabile ai rischi della guerra e gli permise finalmente di conquistare una sconfitta che era molto più difficile, molto più sanguinosa e costosa della vittoria. In quasi 20 anni di guerra, il colonnello Aureliano Buendía era stato molte volte a casa, ma lo stato d'urgenza col quale arrivava sempre, l'apparato militare che lo accompagnava dovunque, l'aura di leggenda che dorava la sua presenza e alla quale non era stata insensibile nemmeno la stessa Ursula, finirono per trasformarlo in un estraneo. Amaranta non riusciva a conciliare l'immagine del fratello che aveva trascorso l'adolescenza fabbricando pesciolini d'oro con quella del guerriero mitico che frapponeva tra sé e il resto dell'umanità una distanza di 3 metri. Ma quando si seppe che era prossimo l'armistizio e si pensò che egli tornava ritrasformato in essere umano, redento finalmente al cuore dei suoi, gli affetti familiari assopiti da tanto tempo rinacquero con più forza che mai. «Finalmente», disse Ursula, «avremo di nuovo un uomo in casa». Ma in realtà, negli ultimi anni, il colonnello Buendía aveva pagato le sue rate finali alla vita, inclusa quella dell'invecchiamento. Passando davanti al laboratorio di oreficeria che Ursula aveva preparato con speciale diligenza, non si accorse nemmeno che le chiavi erano infilate nella serratura. Non avvertì i minuscoli e laceranti danni che il tempo aveva fatto nella casa e che dopo un'assenza così prolungata sarebbero sembrati un disastro a qualsiasi uomo che avesse conservato vivi i propri ricordi. Si sedette sotto il portico, avvolto nella coperta e senza togliersi gli stivali, come se non aspettasse altro che spiovesse, e rimase per tutto il pomeriggio a vedere piovere sulle begonie. Ursula capì allora che non lo avrebbe trattenuto in casa per molto tempo. Se non è la guerra, pensò, può essere solo la morte. Fu una supposizione così nitida, così convincente, che la interpretò come un presagio. Quella sera, a cena, sembrava estraneo a tutto. Ursula fu l'unica che osò turbare la sua astrazione. «Se devi andartene di nuovo», gli disse a metà della cena, «perlomeno cerca di ricordarti come eravamo questa notte». Allora il colonnello Aureliano Buendía si rese conto, senza sorpresa, che Ursula era l'unico essere umano che fosse riuscito a sviscerare la sua miseria e per la prima volta in molti anni si arrischiò a guardarla in faccia. Aveva la pelle cotta, i denti cariati, i capelli appassiti e senza colore e lo sguardo attonito. La confrontò al ricordo più antico che aveva di lei e in un attimo scoprì i graffi, le lividure, le ulcere, le cicatrici che aveva lasciato in lei più di mezzo secolo di vita quotidiana e sentì che quelle stragi non suscitavano in lui nemmeno un sentimento di pietà. Fece allora un ultimo sforzo per cercare nel suo cuore il luogo dove gli si erano putrefatti gli affetti. E non poté trovarlo. «Mi perdoni», si scusò rispondendo alla richiesta di Ursula, «ma questa guerra ha distrutto tutto». Nei giorni che seguirono si dedicò a distruggere ogni traccia del suo passaggio nel mondo. Semplificò il laboratorio di oreficeria fino a lasciare soltanto gli oggetti impersonali. Regalò i suoi vestiti alle ordinanze e seppellì le sue armi nel patio. Conservò soltanto una pistola e con un solo proiettile. Ursula non intervenne. e quando ormai nella casa non rimaneva un solo oggetto che permettesse di ricordarlo, portò nella stanza del forno il baule coi versi, nel momento in cui Santa Sofia della Piedad si preparava ad accendere il fuoco. «Lo accenda con queste», le disse, consegnandole il primo rotolo di carte ingiallite. «Sono carte importanti», disse Santa Sofia della Piedad. «Niente affatto», disse il colonnello. «Sono cose che uno si scrive per sé». «Allora», disse lei, «le bruci lei stesso, colonnello». Non solo lo fece, ma schiantò anche il baule con un'accetta e gettò le schegge nel fuoco. Qualche ora prima, Pilar Ternera era andata a visitarlo. Dopo tanti anni che non la vedeva, il colonnello Aureliano Buendía si meravigliò di quanto fosse diventata vecchia e quanto fosse ingrassata e quanto aveva perduto splendore la sua risata, ma si meravigliò anche della profondità che aveva raggiunto nella lettura delle carte. «Fa attenzione alla bocca», gli disse la donna. E lui si chiese se l'altra volta che glielo aveva detto, all'apogeo della sua gloria, non era stata una visione sorprendentemente anticipata del suo destino. Poco dopo, quando il suo medico personale finì di visitarlo, il colonnello gli chiese, senza dimostrare particolare interesse, quale fosse il luogo esatto del cuore. Il medico auscultò e poi gli tracciò un circolo sul petto con un batuffolo di cotone sporco di iodio. Il martedì dell'armistizio spuntò tiepido e piovoso. Il colonnello Aureliano Buendía comparve nella cucina prima delle 5 e bevve il suo solito caffè senza zucchero. «In un giorno come questo sei venuto al mondo», gli disse Ursula. «Tutti si spaventavano per i tuoi occhi aperti». Lui non le badò, perché stava ascoltando i preparativi della truppa, gli squilli della tromba e le voci di comando che straziavano l'alba. Alle 7 del mattino, quando il colonnello Gerineldo Márquez venne a cercarlo in compagnia di un gruppo di ufficiali ribelli, lo trovò più taciturno che mai, più pensieroso e solitario. Ursula cercò di buttargli sulle spalle una coperta nuova. «Cosa penserà il governo?» gli disse. «Si immagineranno che ti sei arreso perché non avevi di che comprarti nemmeno una coperta». Ma lui non l'accettò. Già sulla porta, vedendo che non aveva ancora smesso di piovere, si lasciò mettere un vecchio cappello di feltro di José Arcadio Buendía. «Aureliano», gli disse allora Ursula, «promettimi che se ti incontri da quelle parti con l'ora fatale, penserai a tua madre». Lui le rivolse un sorriso distante, alzò la mano con tutte le dita distese e senza dire una parola lasciò la casa e affrontò le grida, i vituperi e le bestemmie che lo avrebbero inseguito fino all'uscita del villaggio. Ursula fece scorrere la sbarra nella porta, decisa a non toglierla per il resto della sua vita. «Marciremo qui dentro», pensò. «Diventeremo cenere in questa casa senza uomini, ma non daremo a questo paese miserabile il piacere di vederci piangere». Passò tutta la mattinata a cercare un ricordo di suo figlio negli angoli più nascosti e non riuscì a trovarlo. La cerimonia dell'armistizio durò appena il tempo indispensabile per la posizione delle firme. Attorno al rustico tavolo collocato in mezzo a una rattoppata tenda da circo, c'erano gli ultimi ufficiali rimasti fedeli al colonnello Aureliano Buendía. Prima della firma, il delegato personale del Presidente della Repubblica cercò di leggere a voce alta il documento della resa, ma il colonnello Aureliano Buendía si oppose. «Non perdiamo tempo in formalità», disse. E si dispose a firmare i documenti senza leggerli. Uno dei suoi ufficiali ruppe allora il silenzio soporifero della tenda. «Colonnello», disse, «ci faccia il favore di non firmare per primo». Il colonnello Aureliano Buendía acconsentì. Quando il documento fece il giro completo del tavolo, in mezzo a un silenzio così nitido che si sarebbero potute decifrare le firme dallo scricchiolio della penna sulla carta, il primo spazio era ancora in bianco. Il colonnello Aureliano Buendía si accinse a riempirlo. «Colonnello», disse allora un altro dei suoi ufficiali, «fa ancora in tempo a non sfigurare». Senza alterarsi, il colonnello Aureliano Buendía firmò la prima copia. Poi beve un bicchiere di limonata e mangiò un pezzo di biscotto e si ritirò in una tenda da campo che gli avevano preparato nel caso volesse riposare. Lì si tolse la camicia, si sedette sull'orlo della branda e alle 3:15 del pomeriggio si sparò un colpo di pistola nel cerchio di iodio che il suo medico personale gli aveva tracciato sul petto. In quella stessa ora, a Macondo, Ursula scoperchiò la pentola del latte sul focolare, chiedendosi perché mai tardasse tanto a bollire, e la trovò piena di vermi. «Hanno ucciso Aureliano!» esclamò. Guardò verso il patio, ubbidendo a un costume della sua solitudine, e allora vide José Arcadio Buendía, fradicio, triste di pioggia e molto più vecchio di quando era morto. Lo hanno ucciso a tradimento, precisò Ursula. E nessuno gli ha fatto la carità di chiudergli gli occhi. Verso sera vide attraverso le lacrime gli impetuosi e luminosi dischi arancione che solcarono il cielo come un'esalazione e pensò che era un segno di morte. Era ancora sotto il castagno a singhiozzare sulle ginocchia di suo marito quando portarono il colonnello Aureliano Wendy avvolto in una coperta indurita di sangue secco e con gli occhi aperti di rabbia. Era fuori pericolo. Il proiettile aveva seguito una traiettoria così netta che il medico gli aveva infilato nel petto e sfilato dalla schiena un cordone imbevuto di iodio. «Se mi restasse ancora un po' d'autorità», disse al dottore, «lei sarebbe fucilato seduta stante». Non per avermi salvato la vita, ma per avermi messo in ridicolo. Il fallimento della morte gli restituì in poche ore il prestigio perduto. Quegli stessi che avevano messo in giro la panzana che il colonnello avesse venduto la guerra per una stanza con le pareti fatte di mattoni d'oro, definirono il tentativo di suicidio come un'azione d'onore e lo proclamarono martire. Poi, quando rifiutò l'ordine del merito che gli conferì il Presidente della Repubblica, perfino i suoi più accaniti rivali sfilarono nella sua stanza chiedendogli di disconoscere i termini dell'armistizio e promuovere una nuova guerra. Il colonnello Aureliano Wendy lasciò la sua stanza in dicembre, ma gli bastò dare un'occhiata al portico per non tornare più a pensare alla guerra. Con una vitalità che sembrava impossibile con tutti i suoi anni, Ursula aveva ancora una volta fatto ringiovanire la casa. «Ora vedrete chi sono io», disse quando seppe che suo figlio sarebbe vissuto. «Non ci sarà una casa migliore e più aperta a tutti di questa casa di pazzi!» «Scron them! I want airboat! I want airboat! I want airboat! I want airboat! Te la gialse! Me's a girl, me no fight over manna! From a little bit of just some tanna. This a girl on the one game one. After that him done full time, just get the palma. Fight this who girl no fight over man. And everybody knows say we a name brand. When me a wine, me give the